Certo, allora, sì, per la sentenza giusta, ricordo solo brevemente, il processo che era stato intentato a 12 lavoratrici e lavoratori del collettivo Precaria Tesia, anzi a 13 del collettivo Precaria Tesia e due compagni dell'Assemblea Coordinata e Continuativa contro la Precarietà, e appunto un processo che era stato costruito sulla base del rapporto di polizia del commissariato tuscolano, il commissariato che frequentemente, scusate il fuoco di parole, a Tesia, il quale aveva fatto un rapporto dove peraltro, senza citare alcun episodio specifico, diceva che durante lo sciopero del 1° giugno del 2006, sciopero appunto nell'ambito dell'avvertenza avviata dai precari di Tesia per avere il riconoscimento di un contratto a tempo indeterminato. Ricordiamo che in quell'azienda è più grande call center d'Italia, forse d'Europa, con 4.000 lavoratrici e lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa prima e a progetto poi, e appunto i lavoratori si erano auto-organizzati, costituiti in collettivo e hanno avviato una resistenza che è durata oltre 2 anni, nel corso dei quali sono stati ben 12 scioperi e un'infinità di iniziative, insomma, che la città di Roma probabilmente ricorda e che hanno visto a conclusione l'intervento del governo di Prodi e Damiano, che fecero una norma specifica sulla finanziaria del 2006 in cui, se da un lato si riconosceva la subordinazione del rapporto di lavoro e quindi l'obbligo per le aziende di assumere con contratto subordinato a tempo indeterminato, dall'altro contestualmente si diceva che l'azienda, per dare questo contratto, poteva chiedere al lavoratore di rinunciare a tutto quanto il pregresso, quindi a tutti sia i contributi previdenziali, sia il mancato pagamento dei salari, eccetera, eccetera, che erano stati accumulati negli anni, e veniva finanziata questa norma anche con un contributo di 300 milioni di euro a favore appunto dei call center che ottemperavano a queste assunzioni. E questo provvedimento legislativo poi è stato tramutato in accordo con un avviso comune da Confindustria, CGL, CGL, UIL, quindi a un massimo livello nazionale, e poi da uno specifico accordo a livello aziendale e territoriale. Quindi diciamo tutti quanti, dal governo alla Confindustria ai sindacati confederali, uniti per arginare la forza della lotta auto-organizzata e addivenire a un accordo che comunque limitasse i danni per l'azienda, che è il motivo per cui molti lavoratori non hanno accettato questo tipo di accordo, e anche tutti i compagni e le compagne del collettivo sono stati licenziati e hanno in corso le cause al Tribunale del Lavoro. Però allo stesso tempo quella lotta auto-organizzata ha prodotto l'assunzione di ben 20.000 operatori di call center in tutta Italia, quindi da questo punto di vista è un enorme successo politico a cui purtroppo non ha fatto seguito una presa in carica da parte del movimento diffusamente, quindi una diffusione dell'esperienza, però rimane insomma il dato della forza di quella importanza, di quella capacità di auto-organizzazione. Appunto, nell'ambito di questa partenza, il 1° giugno 2006 è stato uno sciopero partecipatissimo, tanto che alle 3:30 del pomeriggio l'azienda dichiarò la serrata, chiudendo quindi l'azienda stessa e anche rimandando a casa una trentina di lavoratori che erano entrati a lavorare, mentre tutto il resto aveva partecipato allo sciopero. e fra l'altro veniva dopo il licenziamento di ben 400 persone come rappresaglia che l'azienda aveva operato al finire del maggio del 2006 contro la lotta che era in corso. E per cui su appunto input del commissario Auguscolano, che diceva che durante questo sciopero, lo sciopero in realtà era rappresentato da una manifestazione non autorizzata e da aver commesso il reato di violenza privata per avere impedito appunto quella violenza ai lavoratori di entrare in azienda, fatto sta che questa violenza nello stesso rapporto polizia si configurava nell'aver gridato slogan contro la precarietà dell'azienda. Nessun episodio concreto è stato riportato nel rapporto di polizia, né poteva essere altrimenti visto, come detto, della partecipazione totale dei lavoratori allo sciopero. Ciò nonostante è stato imbastito questo processo e appunto 15 di noi eravamo imputati di violenza privata e manifestazione non autorizzata, e malgrado insomma le testimonianze tutte dell'accusa non hanno le testimonianze di difesa hanno evidenziato che non vi è stato alcun tipo di violenza in questa giornata. Per quanto riguarda le testimonianze dell'accusa, sono composte di 3 testimonianze, 2 del commissario Scolano e il capo ispettore della Digos di Roma, che era presente in quella giornata, dove appunto tra l'altro c'era un sortissimo di forze dell'ordine sia in tenuta antisommossa, sia in borghese, sia appunto di personale della Digos. E in queste testimonianze uno dei poliziotti, il commissario Tuscolano, ha riferito di aver assistito un episodio appunto di spintonamento da parte di un lavoratore del collettivo nei confronti di una lavoratrice e comunque innumerevoli altri episodi di violenza stessa. L'altro ispettore del commissariato ha detto che non aveva assistito a nessun episodio specifico, però ad alcuni spintonamenti, ma non sapeva riconoscere da chi erano stati operati. L'ispettore della Digos invece ha detto che non era accaduto niente, non c'era stato nessun problema di ordine pubblico e per quanto li riguardava non aveva assistito quindi a nulla che avesse rilevanza penale. Malgrado insomma queste testimonianze, che senza dover aggiungere nulla insomma testimoniano della esclusiva volontà politica cercare di intimorire chi si auto-organizza e costruisce conflitti, scioperi, iniziative di lotta, e appunto questa evidenza è comunque forse per giustificare la stessa istruzione del processo si è voluto condannare comunque un nostro compagno a un mese di reclusione. Ovviamente rispetto a questo esito faremo ricorso in appello, ma al di là di questo rimane da un lato il dato comunque significativo dell'assoluzione dei 14 compagni e compagni, ma dall'altro lato anche il significato politico di una condanna che appunto tende a intimorire chi si organizza, cosa che naturalmente non ha alcuna possibilità di riuscita, ma che allo stesso tempo va, crediamo, denunciata con forza. Insomma, per questo nelle prossime ore faremo un comunicato, insomma, poi nella trasmissione Stappabuchi che facciamo tutti i lunedì, quindi anche oggi dalle 18.30 avremo modo insomma di approfondire anche gli elementi insomma del processo. Va benissimo Marco, ti ringraziamo e dunque, come ricordavi, il prossimo appuntamento su questi temi questa sera alle 18.30 e poi ovviamente ce ne saranno altri ancora nel corso della settimana. Un saluto e un abbraccio a te e a tutte e tutti i 15 ovviamente. Ciao. Ok, grazie, un saluto anche a te e naturalmente a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Grazie, ciao. Ciao.